Nuvola, sei tu nel cielo, ti muovi su e giù di giorno. Sei bianca o grigia e la sera arrossisci un po'. Quante volte una nuvola avrei voluto essere per restare sospeso a fluttuare distante dalla greve aria quotidiana, senza fili galleggiare nell'oblio, né passato né futuro né rimpianti o angosce. Quante volte sono sprofondato a terra come pioggia perdente, pensavo d'essere imbattibile, sbagliavo, avvilito ogni tanto, rimpiango, stagione dell'incoscienza. Sguardi, si perderebbero nel grande vuoto azzurro. Vento di primavera, portami via in alto, più in alto, fino alle candide, così che io possa librarmi nell'aria leggero, lasciando ogni pensiero pesante a terra, fare l'ombra di qualcun altro. Tu che sei fonte di emozioni, non hai costrizioni, e sei simbolo di libertà, te ne vai senza meta. Tu che colmi i vuoti di questo cielo, anche il sole sa oscurare. Anche tu è uno spazio definito, che varcherai domani, quando ti dissolverai in zeffiro. In zeffiro.